vado in una valle del Trentino e faccio un incontro pubblico politico su, che ne so, sulla finanziaria, arriva l'orso, sul governo Monti, no, sul governo Monti, noi, da noi sono piccoli comuni, quindi fai un incontro pubblico e ti trovi 30-40 persone. Invece deve parlare dell'orso? Noi facciamo un incontro sull'orso, ti trovi 200-250 persone. Cioè l'orso è la priorità del Trentino, è l'orso? No, nelle valle, può anche ridere. No, ma per carità! Però nella preoccupazione dell'opinione pubblica delle popolazioni di montagna, è un problema. Sì, lei dice lo spread, no, interessante. Il crollo, il ritorno alla lira. Chi se ne frega? Ah, ritorno alla lira, beh, un argomento molto interessante questo. No, lei sta dicendo che comunque in alcune valli in Trentino la preoccupazione principale sono questi orsi che ogni tanto. Da 1 a 10 ritorno alla lira trovi 3 persone. Sì. Da 1 a 10 sulle problematiche dell'orso trovi 7-8 persone. E da 1 a 10 sullo spread? Sullo spread, un dibattito sullo spread, ad esempio, in Trentino. Interessante, però ritengo che saremo a 2.